giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'importanza del capitale umano all'assemblea di Confindustria Alto Adriatico a Grado, in platea anche gli operai ghanesi appena arrivati in Italia. Alla Camera si discute il ripristino delle province. In regione il centrodestra punta a una riforma dello statuto entro l'estate. A Udine è attesa a breve la sentenza del processo per l'omicidio del clochard Luca Tisi. Macchi rischia l'ergastolo, sono dispiaciuto, dice. Migliaia di piercing e componenti per occhiali contraffatti sequestrati dalla finanza di Pordenone, multa fino a 26.000 euro. Trieste Next, ovvero la scienza capace di essere popolare, scolaresche tra gli stand, 300 relatori, premi Nobel e studiosi. Una due giorni sui trasporti all'Ateneo di Udine, da quello marittimo a quello spaziale, senza dimenticare i diritti del passeggero. Calcio, la Triestina sconfitta dal Lumezzane, esonera Santoni, l'Udinese si prepara all'anticipo di domani al Friuli, arriva l'Inter. 12:31 minuti, buongiorno da Rita Mico. Li apriamo con l'assemblea generale di Confindustria Alto Adriatico, che ragiona sulla manodopera che manca, sull'importanza del capitale umano, sul lavoro che si vuole creare. In platea ad ascoltare oltre 250 studenti del territorio e anche gli operai ghanesi appena arrivati in Italia. Il capitale umano è al centro dell'Assemblea Generale di Confindustria Alto Adriatico che si sta tenendo a Grado, un capitale umano presente, seduto in platea. Infatti tra i capitani d'impresa, i sindacalisti, i politici, le istituzioni si notano i volti giovani dei 210 studenti di ITS, istituti tecnici superiori e delle università della regione. Ma il capitale umano oggi è fatto anche dai 20 ragazzi provenienti dal Ghana arrivati ieri sera dopo aver superato brillantemente, è stato detto, il test di conoscenza della lingua italiana fatto dall'Università per Stranieri di Siena, dopo aver frequentato una scuola tecnica professionalizzante dei salesiani in Ghana e ora pronti a diventare nuova forza lavoro in Italia. Il progetto voluto dal presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, che ha ricevuto il benestare lo scorso aprile del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prevede di formare lì i lavoratori di cui abbiamo bisogno qui in Italia. Entro dicembre 250 ragazzi ghanesi già formati entreranno nelle nostre fabbriche, ha dichiarato Agrusti. Il prossimo anno saranno ancora di più. Sono sbarcati ieri sera in Italia con un contratto di lavoro in tasca e una casa che li potrà accogliere. Si tratta del primo caso concreto di immigrazione programmata dall'introduzione del decreto Cutro, primo caso in Europa, ha dichiarato l'europarlamentare Alessandro Ciriani. È un progetto unico che deve fare scuola, deve essere replicato. A noi non serve un'immigrazione delle porte aperte, serve un'immigrazione di qualità che possa dare risposte ai bisogni occupazionali dei nostri territori e del comparto industriale. Quindi non occorre un'immigrazione generale, la lista, ma un'immigrazione formata. Portare le nostre competenze, le nostre esperienze, le nostre capacità professionali in quei paesi significa formare persone e consentire di rovesciare il paradigma, cioè non più gente che sfugge dal proprio paese ma resta e contribuisce allo sviluppo della propria comunità, e dall'altro lato portare persone che possono concretamente costruirsi un futuro e una prospettiva di vita qui in Europa. Il progetto Ghana è un esempio di immigrazione positiva, ha dichiarato Massimiliano Fedriga, che esclude invece l'utilità di formare persone migranti già presenti sul territorio. Non credo che la cittadinanza lo chiede e si è già sperimentato in passato, in modo fallimentare. Abbiamo avuto anche i lavori socialmente utili, dove queste persone, ne partecipavano 2 o 3 giorni, poi si allontanavano, non hanno intenzione di rimanere sul nostro territorio, i ragazzi che vengono dai Ghana sono formati, hanno la volontà di venire a contribuire e vivere nel nostro territorio. Chi entra regolarmente non ha questa volontà, quindi penso semplicemente che siano delle giustificazioni per accettare l'immigrazione irregolare. Noi l'immigrazione irregolare non possiamo accettarla, dobbiamo invece guidare un'immigrazione costruttiva. Grado, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ripristino delle province in Friuli Venezia Giulia, è iniziata oggi la discussione alla Camera. È approdato nell'Aula della Camera il disegno di riforma dello Statuto regionale che reintroduce le province elette direttamente dai cittadini. È atteso per la prossima settimana il voto da parte di Montecitorio e dopodiché il progetto di modifica costituzionale passerà al Senato. Bisognerà attendere almeno 3 mesi per una nuova seconda approvazione delle due Camere, come prevede la Costituzione in questi casi. Non c'è solo il ritorno delle province elettive tra le novità proposte dal Consiglio regionale, ma anche la modifica delle regole sul referendum confermativo e il congelamento dell'attuale numero dei consiglieri regionali fino ad oggi, legato alla popolazione. Le province erano state cancellate nel 2016 per volontà del centrosinistra, che era allora a maggioranza ed esprimeva la presidente Deborah Serracchiani. Il ripristino di un ente di area vasta è stata una delle battaglie in particolare della Lega e dell'attuale governatore Massimiliano Fedriga, che ha assegnato il compito di seguire anche questo iter a un suo fedelissimo, l'assessore alle autonomie locali, per Paolo Roberti. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca giudiziaria, attesa per le 13 la sentenza del processo a Bruno Macchi per l'omicidio del senza tetto Luca Tisi nell'aprile dello scorso anno. A Udine la pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo. So che vi ritirerete per giudicarmi, sono qui una volta ancora per dirvi quanto sono dispiaciuto. Giusto una breve dichiarazione, neanche 2 minuti da parte di Bruno Macchi, imputato per l'omicidio dell'essenza fissa dimora Luca Tisi, alla corte d'assise in procinto di ritirarsi in camera di consiglio per decidere la pena. Nessuna replica rispetto alle ringhe nell'ultima udienza di settembre da parte della PM Lucia Terzariolla e degli avvocati difensori Massimiliano Basevi e Cristian Buttazzoni. Solo le parole di Macchi questa mattina in tribunale a Udine. Poi la Corte, composta dai magistrati Paolo Milocco e Paolo Lauteri assieme ai 6 giudici popolari, ha dato appuntamento alle ore 13 per la lettura della sentenza. In quel periodo ho fatto abuso di stupefacenti e quella notte per difendermi ho perso il controllo, non ho visto più nulla. Ancora una volta mi spiace tanto, ho sbagliato, tutto quello che ho detto è la verità, ha affermato Macchi, a cui non è stata concessa la perizia psichiatrica. L'imputato ha sempre sostenuto di essersi sentito afferrare alla gamba e di avere ceduto nella difesa. Per la PM Macchi scelse invece a caso la vittima, agendo perché aveva voglia di uccidere, senza altri motivi. A pochi giorni dal suo 30° compleanno scoprirà quindi tra poco se dovrà passare tutta la vita in carcere, come chiesto dall'accusa, ergastolo con le aggravanti dei futili motivi della crudeltà e della minorata difesa della vittima, oppure 21 anni, il minimo della pena, come spera il collegio difensivo. Luca Tisi, senza fissa dimora, nato a San Vito al Tagliamento nel 64, fu ucciso in Galleria Alpi all'alba del 15 aprile 2023 a Udine. 85 coltellate, 43 delle quali al capo. I parenti di Tisi non si sono costituiti parte civile. A febbraio era in via giudizio e il processo si è svolto rapidamente, dopo quella preliminare a marzo, 5 le udienze tra maggio e settembre, per arrivare al momento odierno della sentenza. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pordenone migliaia di piercing e accessori per occhiali privi delle informazioni obbligatorie previste dal codice del consumo e sui materiali utilizzati complessivamente sotto sequestro sono finiti 6.800 articoli, mentre l'esercente è stato sanzionato amministrativamente con la penale che può andare sino a quasi 26.000 euro. La scoperta è stata fatta in un negozio nel corso di controlli per il contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti. I controlli sono stati estesi anche al magazzino, dove sono stati trovati e sequestrati altri articoli privi delle informazioni obbligatorie. E a Pordenone, prefettura, procura, azienda sanitaria Friuli Occidentale con le forze dell'ordine hanno siglato un protocollo per uniformare le procedure di accertamento dello stato di ebbrezza e dell'uso di stupefacenti. Un protocollo per uniformare le procedure di accertamento dello stato di ebbrezza sotto l'uso di sostanze stupefacenti sia dal punto di vista sanitario che delle forze di polizia. L'iniziativa voluta dalla Procura della Repubblica di Pordenone con la locale prefettura e l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale consentirà maggiore efficienza anche ai fini probatori degli accertamenti delle condotte illecite e una migliore conformità del percorso per tutti i soggetti coinvolti. Il procuratore di Pordenone, Pietro Montrone. L'obiettivo è quello di razionalizzare, di uniformare e di rendere quindi più efficiente quello che è la risposta di tutti i soggetti che sono coinvolti nell'accertamento di queste condotte di rilevanza penale per addivenire al risultato più sicuro e più conforme alla legge, al fine appunto di evitare che invece vizi o carenze nella fase diciamo dell'accertamento possano poi essere oggetto di eccezioni difensive che possano vanificare l'attività svolta da questi soggetti. A questo si aggiungono corsi di formazione specifici per le forze di polizia e nuove dotazioni alcolimetriche, apparecchiature in arrivo grazie a 90.000 euro messi a disposizione dalla Regione. A margine della sigla del protocollo, il prefetto Manno ha anticipato la definizione del nuovo piano provinciale di difesa civile. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Il meteo, il cielo è coperto sulla regione, le temperature alle 11 a Trieste 23 gradi, a Gorizia e Udine 22,5, a Pordenone 20,5, a Tolmezzo 17 gradi, a Tarvisio a Forni di Sopra 14,5, sul Piancavallo 13,5 gradi. Su Monte Lussari e Monte Zoncolan 11, a Grado Lignano 23 gradi, temperatura del mare 21 gradi. Le previsioni dell'ARPA: questo pomeriggio cielo in prevalenza coperto con piogge molto intense e temporalesche sulle prealpi Giulie, da abbondanti e intense sul resto della zona montana. Su pianura e costa piogge da moderate ad abbondanti verso le prealpi. Su tutte le zone possibili anche temporali con piogge localmente intense. Sulla costa soffierà vento forte da sud con possibilità di mareggiate. Qualche schiarita sarà possibile in giornata, specie a ovest. Domani nuvolosità variabile, probabili rovesci e temporali sparsi, alternati a fasi di tempo migliore. Soffierà ancora vento sostenuto da nord in pianura durante la giornata, dimora sulla costa dal pomeriggio, temperature in calo. Ed è entrato nel vivo Trieste Next, l'evento internazionale dedicato alla scienza. Tantissimi gli appuntamenti in città. Senza paura del cielo coperto e neppure dell'allerta meteo, la scienza ancora una volta dimostra tutta la sua capacità di essere anche popolare. Fra Piazza dell'Unità e Piazza Verdi, nel cuore di Trieste, i luoghi principali di Next sono affollati di scolaresche. Studenti di ogni età e docenti si muovono sicuri fra stand, mostre, laboratori e conferenze di ricercatori. In mattinata all'inaugurazione ufficiale di questa 13ª edizione del Festival della Ricerca Scientifica. Saranno 300 i relatori iscritti. Provengono dall'Italia e dal mondo, un centinaio di eventi, alcuni dei quali disponibili anche in diretta streaming. E si terrà anche, per la seconda volta, il premio letterario Science Book of the Year. Ospiti illustri: il premio Nobel per la fisica Andrei Geim, il compositore e premio Oscar Nicola Piovani, Wilhelm Hüttner, che è stato direttore del Max Planck Institute e attuale presidente della Max Planck Society. Dall'Università di Berkeley è arrivato il professor Michael Irving Jordan, docente di Data Science. Gli orizzonti dell'intelligenza, la conoscenza tra essere umano e tecnologia, il titolo di questa edizione, che inequivocabilmente evoca il tema delicato e immenso dell'intelligenza artificiale, a cui effettivamente saranno dedicati diversi incontri. Un'occhiata a quelli di questo pomeriggio: Sharper, la notte europea dei ricercatori, con giochi, spettacoli, esperimenti dal vivo pensati per far conoscere in modo divertente e stimolante il mestiere del ricercatore. E spazio poi alla connessione tra salute e scienza. Se la fisica va in corsia, in Piazza Verdi alle 15, e il fegato dagli aruspici ai big data, in sala Bazlen di Palazzo Gopcevic, sempre alle 15. Trieste Next, Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Una a due giorni per analizzare le principali sfide che il settore dei trasporti dovrà affrontare nei prossimi anni. A Udine il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Ateneo e l'Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti hanno organizzato un convegno in cui si parla di tecnologie, esigenze operative e contrattuali. Intervengono i principali operatori dei comparti portuale, aeroportuale, del trasporto pubblico locale, delle aziende del settore e, più importante, tanti docenti italiani di diritto della navigazione e dei trasporti. Vengono affrontate in particolare le questioni maggiormente rilevanti dei settori marittimo, aereo, dello spazio stradale e ferroviario, nonché i diritti del passeggero. Ma come ci spiega il coordinatore scientifico Alfredo Antonini, il trasporto è nato per portare merci, sviluppandosi solo in un secondo momento sulla movimentazione delle persone. Parliamo del trasporto in generale, avendo di mira soprattutto gli sviluppi attuali, presenti e futuri. Il trasporto è trasporto di cose o trasporto di merci e trasporto di persone o trasporto passeggeri. Nella concezione corrente si guarda soprattutto oggi al trasporto passeggeri, ma dobbiamo ricordare che nella tradizione storica il trasporto è stato essenzialmente trasporto di merci. Oggi le novità sono novità normative nella regolazione delle varie forme di trasporto, novità contrattuali nella creazione di nuovi rapporti contrattuali in relazione alle nuove esigenze incessanti che nel concreto affiorano quotidianamente, e nuovi mezzi legati a una evoluzione tecnologica formidabile. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, basta pensare ai mezzi a pilotaggio remoto oppure mezzi di trasporto autonomi. Per quello che riguarda il futuro a 20 anni, lei pensa che per i lunghi viaggi ci muoveremo ancora in aereo oppure esisteranno soprattutto queste ferrovie superveloci che si stanno già sperimentando per esempio in Giappone? Le ferrovie superveloci richiedono degli investimenti a terra non da poco e la creazione dell'infrastruttura. Ogni rete terrestre, stradale, ferroviaria, dell'alta velocità, Hyperloop, che è la grande novità, vediamo che sbocchi avrà, ha bisogno di un'infrastruttura e quindi di guadagnare spazi. Io ritengo ancora che in futuro il trasporto segua i criteri tradizionali del trasporto, soprattutto aereo. Altro il discorso di come il trasporto di cose o di persone evolverà in relazione all'automazione e in questo senso devo prevedere che nel trasporto di merci l'automazione la farà da padrone. Potremo avere dei veicoli, per esempio terrestri, simili ai nostri camion o autocarri o autotreni, che si muoveranno 24 ore su 24, programmati e senza conducente. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Trieste 2050, sfide e opportunità della città del futuro, una tavola rotonda per riflettere con gli esperti del settore promossa dal Collegio dei Geometri e di Trieste in occasione del centenario della fondazione. Nel 2050 Trieste sarà una città inclusiva e sostenibile se punterà sull'attrattività dei giovani e dei ricercatori, sull'innovazione e soprattutto su nuove politiche di rigenerazione urbana che devono nascere da un confronto con gli esperti e dalla partecipazione attiva della cittadinanza. La proposta arriva dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Trieste che in occasione del centenario della Fondazione ha promosso una tavola rotonda in Sala Luttazzi per riflettere sulle sfide di una città che ha abbandonato l'immobilismo e sta assistendo ad un nuovo rinascimento, come ha spiegato il presidente Alessandro Gherdina. Il futuro di Trieste non si costruisce solo con il progetto di rigenerazione del Porto Vecchio Porto Vivo, ma anche con il recupero degli edifici vuoti del centro e delle periferie, puntando sull'azzeramento del consumo del suolo e sui servizi sociali, sanitari e culturali per evitare lo svuotamento delle periferie. Sollevata l'importanza di una gestione più responsabile degli affitti brevi dopo la crescita incredibile del turismo in città, con soluzioni abitative per attrarre e far restare a Trieste anche gli studenti e i docenti universitari, ma anche i ricercatori e il mondo della scienza, ha sottolineato il rettore di Lenarda. La presidente degli architetti Bloccari ha parlato di un'urbanistica nuova che non pensi solo agli indici edilizi, ma che guardi anche al benessere del cittadino e che operi sul senso della comunità. Prima del dibattito sono stati consegnati riconoscimenti ai geometri con oltre 40 anni di attività, mentre il sindaco di piazza ha conferito al collegio la medaglia bronzea. Trieste, Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Trieste per una dispersione di gas rilevata sulla rete di via commerciale Acegas APS Amga è intervenuta già nel corso della notte per mettere in sicurezza il tratto di condotta. Questa mattina è stato aperto lo scavo per procedere alla riparazione. Data la posizione della dispersione è stato concordato con il comune la chiusura di via commerciale al traffico veicolare all'altezza del civico 63 per il tempo necessario ai lavori. E da oggi al 31 ottobre un corso aperto a tutti promosso dalla Società Alpina Friulana intitolato Gli alberi, il bosco e l'uomo, un legame per la vita. 6 lezioni che culmineranno con una conferenza di Stefano Mancuso a Udine martedì 29 ottobre al Palamostre. Le sue scoperte sui comportamenti delle piante suscitano interesse e meraviglia, così come la sua abilità nel rendere avvincente il racconto della scienza. Si parte però già oggi alla Casa delle Associazioni di Via Brigataria Udine con la lezione Gli alberi, la foresta all'uomo, ecosistema complesso. Relatore Andrea Maroè, agronomo, direttore scientifico di Giant Trees Foundation e responsabile degli alberi monumentali della regione. L'abbiamo sentito per chiedergli come stanno le nostre foreste, come cambieranno con il cambiamento climatico. L'obiettivo principale, sono già stati fatti dei corsi appunto sul riconoscimento degli alberi, in questo caso invece è la gestione dell'albero, la sua importanza all'interno del sistema foresta, ma all'interno anche del sistema montagna, e poi la sua funzione e la sua gestione anche quando diventa legno, legno che comunque è vivo e mantiene tutto il lavoro fatto dall'albero nel corso della sua lunga vita. Il cambiamento climatico in atto cambierà le nostre foreste del Friuli Venezia Giulia nei prossimi 15 anni? Sono convinto di sì. Sui tempi è difficile dare un'indicazione. Potrebbero essere più brevi come potrebbero essere più lunghi, ma sicuramente siamo in presenza di un cambiamento che deve necessariamente portare a una diversità delle formazioni boschive all'interno del nostro Friuli, che comunque si è rivelato essere uno spot, appunto, anche a livello europeo di surriscaldamento climatico. Per quello che riguarda invece le foreste, soprattutto i grandi boschi, come stanno da noi in questo momento? Dopo Vaia si sono abbastanza riprese? Dopo Vaia c'è stata sicuramente una ripresa, i boschi e comunque diciamo l'ambiente boschivo, anche lasciato alla sua libera evoluzione, ha sempre la pretesa di recuperare terreno, anche i terreni abbandonati, appunto alpini, sono stati poi diciamo colonizzati dalle specie arboree e questo accade sempre. Il problema è che i boschi di neoformazione non sono sicuramente e non hanno la stessa valenza ecologica dei boschi invece maturi come quelli che aveva abbattuto Vaia. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Alcuni appuntamenti: l'Associazione Dialoghi Europei propone l'incontro dedicato alla vocazione imperiale della Cina nel disordine mondiale alle 17 al Circolo della Stampa di Corso Italia a Trieste. Nella Casa del Popolo di Torre a Pordenone, Marcello Piacentini e il dittatore, architettura e fascismo, consenso e costruzione di una nazione alle 18. A Civitas, scuola di formazione all'impegno pubblico di Pordenone, ospite l'analista di sistemi finanziari Stefano Paleari alle 18 a Palazzo Montereale Mantica. In vista della giornata mondiale del cuore del 29 settembre, l'associazione Cuore Amico di Muggia organizza il convegno Il Cuore protagonista nella sala Millo del Comune alle 16:30. E ancora a Gorizia, nella sede della Società Filologica Friulana in via Ascoli, la delegazione cittadina dell'Accademia Italiana della Cucina organizza un incontro dedicato alla storia del mondo vitivinicolo del Collio alle 17:30. Per il teatro, a Prata di Pordenone, il Circolo Patuf apre la seconda edizione di Riflessere, Festival della Legalità, con lo spettacolo 378, esibizione che affronta il tema della guerra alle 20:30. Al Circolo Emiliano Zapata in via Ungaresca a Pordenone, teatro con Evviva Maria, i moti di Reggio Calabria del 1970 e l'assassinio di 5 anarchici alle 17:30. E a Monfalcone alle 18 la sala conferenze della biblioteca ospita Un uomo, migliore teatro canzone, scritto, diretto e interpretato da Enrico Taunisio. Adesso lo sport, il calcio. Il Lumezzane vince per 3-2 allo stadio Rocco e la quinta sconfitta consecutiva costa la panchina a Michele Santoni, tecnico della Triestina. Improbabile il ritorno di Tesser, si attendono notizie dalla società. Intanto l'Udinese è a vigilia dell'anticipo di domani, quando al Friuli arriverà l'Inter. La partita persa contro la Roma non cambia la filosofia di Costa Rugnaic, fatta soprattutto di cura dei particolari, anche perché contro una squadra come l'Inter chi sbaglia paga e paga pesantemente. Dobbiamo cercare di evitare il più numero possibile di errori in quanto giochiamo contro una squadra di altissimo livello e la maggior parte dei casi contro una squadra del genere, se si commette un errore, si viene puniti. Nelle parole dell'allenatore tedesco però anche la consapevolezza di una squadra che in testa alla classifica non c'era arrivata per caso. Penso che noi potremmo essere un avversario ostico per l'Inter, almeno è quello che mi aspetto. Noi siamo preparati, anche se bisogna dire che abbiamo alcuni giocatori che non sono ancora al 100% della forma, e noi cercheremo quindi di schierare la migliore formazione possibile. Chi proprio non ci sarà purtroppo è Martin Pagero. Dopo la botta alla caviglia destra patita contro la Salernitana, il centrocampista ha ancora il piede gonfio. Per capire l'entità del problema sarà possibile svolgere esami strumentali solo lunedì. Andrea Bardane, GTGR Friuli Venezia Giulia. Prima di chiudere ancora qualche appuntamento, lo spazio espositivo di Palazzo Manin a Udine inaugura l'esposizione Cacciatori d'aria di Bruno Aita, mostra visitabile fino al 13 ottobre, dal giovedì alla domenica, dalle 17 alle 19. A Trieste invece alle 18, nello showroom di Edilaria in via Ghega, inaugura la mostra Laila Grison Cavalieri, la magica cucitrice. Per il progetto dell'associazione Opera Viva, questa volta Metti in Scena, dedicato al tema le metamorfosi sul cambiamento della società contemporanea, la mostra A me gli occhi al Civico Museo Sartorio di Trieste in collaborazione con Sissa. E infine all'Antico Caffè San Marco di Trieste Paolo Balbi presenta il libro Niccolò Carosio, Passione e Stile, 50 anni raccontando, alle 18, e a Udine alla stessa ora, alla libreria Friuli, Diana Bosniak-Monai presenta il suo libro Senza Lascia Passare. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Roberto Cavallari e Samuel Montalto. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso, da Rita Miccoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.